giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Udine chiede 22 milioni di euro alla Regione per riqualificare Borgo Stazione. Sul tavolo anche la realizzazione del Palasport Carnera. La manovra di assestamento in Consiglio regionale. I lavori proseguono a oltranza con tutti gli altri articoli e il voto finale. Ha approvato l'articolo che impiega più di 12 milioni per la difesa del suolo e la sicurezza idrogeologica e geologica del territorio. Ritrovata l'auto del militare americano di stanza alla base USAF di Aviano, scomparso ad Andreis, continuano le ricerche coordinate dalla prefettura di Pordenone. In aumento i tentativi di truffe agli anziani nel pordenonese, i carabinieri dicono attenzione ai finti tecnici del gas e ai finti incidenti di figli o nipoti. Domani al Via Parigi la grande avventura delle Olimpiadi, cui parteciperanno 16 atleti della nostra regione. La storia della judoka udinese Asia Tavano, testa di serie nella sua categoria di mestiere allevatrice. Bagno di folla a Lubiana per Tadej Pogačar, che ha trionfato al Tour de France. Una festa per celebrare la prima doppietta Giro Tour dopo quella di Marco Pantani. Ancora una buona giornata da Maria Spezia e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del giornale radio. Mentre è in corso la manovra di assestamento in Consiglio regionale, il Comune di Udine chiede alla Regione un finanziamento di 22 milioni di euro per riqualificare Borgo Stazione. Un piano che prevede 4 aree di intervento e che per l'amministrazione comunale è molto importante per lo sviluppo della città, in un quartiere che da anni presenta numerose criticità. Un progetto che fa discutere ancora prima della sua presentazione ufficiale. Il Comune di Udine chiede alla Regione 22 milioni di euro per riqualificare Borgo Stazione. 22 milioni sono una piccola quota rispetto al totale della manovra finanziaria, dice il vice sindaco di Udine Alessandro Venanzi, ma una cifra importantissima per il futuro della nostra città e di un quartiere che da troppi anni è stato dimenticato. Il progetto di riqualificazione è stato sviluppato dal Politecnico di Torino su incarico dell'amministrazione comunale. Include 4 diverse aree di intervento. La prima prevede interventi sull'ambito di Via Roma, la seconda la riqualificazione di Viale Leopardi, la terza la rigenerazione dell'area intorno a Via Dante Alighieri e l'ultima la costruzione di un nodo intermodale con un parcheggio multipiano per auto e bici che attraverso una nuova piazza urbana collega Viale Leopardi a Via Roma. Si tratta nel complesso di una ridefinizione generale degli spazi aperti, delle loro funzioni, del verde e delle attrezzature per la mobilità che possa favorire nuovi usi degli spazi pubblici, incrementando la socialità positiva, il valore economico e sociale del sistema ambientale urbano. Lo spiega l'assessore Marchiol. La riqualificazione di quello che era conosciuto come il quartiere delle Magnolie era un progetto da condividere, sottolinea invece l'esponente dell'opposizione in Consiglio Comunale, Loris Michelini, critico sulla richiesta di finanziamento alla Regione nel corso dei giorni di approvazione della manovra di assestamento. E tra i residenti di Borgo Stazione c'è scetticismo sulla possibilità che questo progetto possa risolvere i problemi di sicurezza del quartiere. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Continua nell'aula del Consiglio regionale l'esame degli emendamenti all'assestamento di bilancio, la più ricca di sempre, con circa 1 miliardo e 400 milioni di euro complessivi. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti. Approvato l'articolo 4 questa mattina della manovra estiva è il capitolo relativo alle infrastrutture, il piatto forte all'esame del Consiglio regionale, i cui lavori proseguiranno per tutta la giornata fino al voto finale previsto in serata. Tra i punti già approvati il finanziamento da 1 milione di euro per il ripristino del canal del Varmo, il sistema irriguo che consente di raccogliere le acque dell'omonimo fiume e servire territorio e aziende agricole tra Varmo, Ronchis, Latisana e Lignano. Previsti anche contributi per incrementare la qualità e la quantità della raccolta differenziata dei rifiuti in località come Piancavallo e Lignano, rispettivamente con 400.000 e 300.000 euro, sostenendo i rispettivi progetti pilota, frutto di 2 emendamenti alla manovra voluti dai consiglieri Buna della Lega e Treleani, Fratelli d'Italia. Fortemente critica la consigliera di Alleanza Verdi e Sinistra Pellegrino, che indica la procedura di approvazione di questo assestamento di bilancio come un mercato delle vacche e biasima la mancanza di una visione di lungo periodo e una progettazione progettualità, specie in materia di servizi sociali per le famiglie, tutela del territorio, ma anche sanità, in merito alla quale critica l'eccessivo affidamento al privato. In discussione in questi minuti il punto 5 della manovra, che prevede tra l'altro 50 milioni di euro per l'edilizia nei centri urbani, previsti dall'assessore alle infrastrutture Amirante. Finanziamento troppo poco circostanziato, secondo le opposizioni, come Moretuz, Patto per l'Autonomia e Onsel, Open Sinistra e FVG. Denari veri per lavori veri, fondamentali per sostenere il comparto, dice invece il capogruppo della Lega, Caligaris. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: è stata ritrovata ieri sera ad Andreis l'auto del militare statunitense di 32 anni in servizio alla base USAF di Aviano, di cui non si hanno notizie da 48 ore. La denuncia di scomparsa ai carabinieri era stata fatta direttamente dai vertici militari americani, perché il sergente Joseph Charles Miele non si era presentato al lavoro e risultava irreperibile anche al telefono. L'aviere si era allontanato da casa assieme al cane. Gli investigatori ritengono che possa essersi avventurato con l'animale lungo i sentieri della Valcillina. Dunque, da stamattina la zona viene perlustrata dai vigili del fuoco e dai tecnici della stazione del soccorso alpino di Maniago. È atteso l'arrivo di un elicottero da impegnare nelle ricerche, che vengono coordinate dalla prefettura di Pordenone. Ennesimo episodio di violenza notturna a Udine. Ieri, poco prima delle 23, è scoppiata una rissa tra un numero imprecisato di persone nei pressi del campo sportivo di via 25 Aprile. Tra questi ci sarebbero anche alcuni cittadini stranieri che frequentano solitamente la zona. Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni passanti, è stata inviata la squadra volante della questura, giunta tempestivamente con un'ambulanza. I sanitari hanno preso in carico una persona che era anche particolarmente alterata dal consumo di sostanze alcoliche e che è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Gli agenti di polizia stanno indagando sulla vicenda per ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto. Negli ultimi giorni i carabinieri di Pordenone stanno registrando svariate segnalazioni di tentativi di truffa contro gli anziani in tutto il Friuli occidentale. Note le tecniche utilizzate dai malviventi, ma sentiamo i consigli degli uomini dell'arma. 25 truffe agli anziani da inizio anno in Friuli occidentale, almeno il triplo quelle tentate ma non andate a segno, perché le potenziali vittime si sono accorte del raggiro. Le tecniche dei malintenzionati sono sempre le stesse: il finto tecnico del gas o il finto avvocato o maresciallo che chiede soldi con la scusa di aiutare un parente in difficoltà. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. L'Arma dei Carabinieri ha lanciato una campagna informativa nazionale con testimoni a Lino Banfi per sensibilizzare la popolazione. Abbiamo raccolto i consigli del comandante provinciale Roberto Spinola. Innanzitutto non bisogna mai aprire la porta agli sconosciuti e ricordarsi che avere la porta chiusa è un fattore di sicurezza. Diffidate dalle persone che si presentano presso le vostre abitazioni chiedendo di verificare l'autenticità delle banconote in vostro possesso o di valutare il valore dei vostri gioielli, perché si tratta sicuramente di truffatori. Gli uffici pubblici non inviano mai i propri impiegati per la riscossione di pagamenti o per la verifica di bollette. Il personale delle forze dell'ordine inoltre agisce sempre in uniforme, quindi bisogna diffidare da chi si presenti presso le abitazioni esibendo tesserini o pettorine recanti i loghi delle forze di polizia. Inoltre bisogna diffidare dai sedicenti avvocati che chiedono la corresponsione di denaro per aiutare persone, amici e conoscenti in difficoltà, perché anche in questo caso si tratta sicuramente di malintenzionati. In tutte le altre evenienze comporre il numero 112, perché, come dice il nostro slogan, possiamo aiutarvi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca: erano andati a fare un aperitivo in centro a Gorizia due turisti stranieri che nei giorni scorsi sono stati denunciati dai carabinieri per aver lasciato chiuse macchine il loro cane con il caldo afoso di questi giorni. Grazie al senso di responsabilità di un passante che ha deciso di chiedere soccorso al numero unico di emergenza 112, sono stati allertati i carabinieri del capoluogo esontino. I militari sono riusciti a trarre in salvo l'animale e individuare i padroni, che lo avevano lasciato chiuso in macchina con i finestrini leggermente abbassati, convinti che questa unica accortezza fosse sufficiente a garantire il ricambio d'aria. Il cane, dopo essere stato reidratato, è stato affidato alle cure di un veterinario e portato a una locale struttura che si sta prendendo cura di lui. Per i due proprietari, individuati dai carabinieri, dopo quasi un'ora è scattata la denuncia per maltrattamento e abbandono di animale. 40 anni di attività per l'AGMEN regionale, l'associazione nata su iniziativa di un gruppo di genitori di piccoli pazienti oncologici. Un bilancio più che positivo, ma ora, sottolineano i vertici, c'è bisogno di forze giovani. Sentirsi dire che la propria figlia o il proprio figlio ha un tumore del sangue inevitabilmente getta nella paura, ma avere al proprio fianco in quel momento altri genitori che ci sono già passati e sono pronti ad aiutare in tutti i modi, anche economicamente, fa davvero la differenza. Per questo 40 anni fa è nata a Trieste l'Associazione dei Genitori di Malati Emopatici Neoplastici, AGMEN. Grazie a questa realtà e alla generosità delle famiglie è stato ampliato negli anni il reparto di oncoematologia dell'ospedale pediatrico Burlo Garofolo. Sono 8 i milioni di euro raccolti negli anni, frutto solo della solidarietà e del passaparola. Oggi i soci sono 435. I piccoli malati che ogni anno gravitano all'interno del reparto sono più di 1.040 le nuove diagnosi, molti coloro che arrivano da fuori regione. A queste famiglie AGMEN offre un contributo in denaro di oltre 2.000 euro, vitto, alloggio e copre anche le spese del viaggio. Inoltre AGMEN offre un supporto psicologico professionale per le famiglie e i pazienti. Molti fondi sono impiegati poi per la formazione del personale sanitario del reparto di oncoematologia e per l'acquisto di macchinari e strumenti all'avanguardia. Una delle volontarie che tutti i giorni porta giochi e sorrisi ai bambini del reparto ci confida: mi stupisco sempre di come le tante persone semplici che donano ad AGMEN non chiedano mai nulla in cambio e vogliono restare anonime. Ieri una delegazione di volontari ha ricevuto il sigillo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Stato di impasse per il rinnovo del contratto nazionale dell'Unione Enti e Iniziative di Assistenza Sociale, UNEBA, che in Friuli Venezia Giulia riguarda 800 lavoratori attivi in case di riposo e servizi socio-sanitari assistenziali. I sindacati hanno chiesto un incontro con il presidente della regione, Massimiliano Fedriga. Continua lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nelle case di riposo e nei servizi sociosanitari assistenziali che hanno un contratto nazionale UNEBA, Unione Nazionale Enti e Iniziative di Assistenza Sociale, scaduto da oltre 4 anni. Dopo il fallito tentativo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro e dopo 17 mesi di trattativa, è stato proclamato lo sciopero nazionale per il prossimo 16 settembre, mentre CGIL, UIL, Friuli Venezia Giulia hanno chiesto un incontro al presidente della regione Massimiliano Fedriga per illustrare la situazione di disagio in cui versano i lavoratori, i loro carichi di lavoro a fronte della fuga connessa alla mancanza di attrattività del settore, la loro impossibilità di fronteggiare l'erosione del potere d'acquisto e anche per valutare i possibili percorsi di tutela dei servizi e delle persone. Le organizzazioni sindacali hanno anche inviato un appello ai sindaci dei territori interessati chiedendo un loro intervento nei confronti delle imprese che applicano il contratto nazionale UNEBA e della stessa associazione datoriale. I sindacati hanno rifiutato la proposta di UNEBA di un acconto di 50 euro lorde e il congelamento degli scatti, considerandola inaccettabile. Il contratto, sempre secondo CGIL UIL, deve essere rinnovato al più presto ed in linea con gli altri siglati nel settore socio-sanitario ed assistenziale. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un nuovo importante passo avanti per la transizione energetica ha permesso di trovare una nuova strada per convertire i gas serra in combustibili green. Lo studio italiano pubblicato sulla rivista Small, che gli ha anche dedicato la copertina, è riuscito infatti a mettere a punto una nuova tecnologia che consente di trasformare direttamente il metano, potente gas serra che ha un potenziale di riscaldamento oltre 20 volte superiore alla CO2, in metanolo, un combustibile prezioso che permetterebbe di ridurre notevolmente le emissioni inquinanti. Il risultato è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori guidato dall'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Trieste, insieme all'Università di Udine, a quella di Trieste, a Elettra Sincrotrone e all'area Science Park. Il metano è una risorsa preziosa e per la sua valorizzazione rappresenta una sfida importante, ha commentato Luca Braglia di OMCNR, area Science Park. Tra gli autori dello studio guidato da Silvia Mauri. Per questo, ha aggiunto, la comunità scientifica di tutto il mondo sta concentrando i suoi sforzi nella ricerca di nuovi materiali che ne facilitano i processi di trasformazione in prodotti che possono essere utilizzati in modo più sostenibile. I ricercatori sono riusciti nell'impresa grazie a un nuovo materiale a basso costo costituito da due metalli, cioè cerio e rame. Questa tecnologia evita l'utilizzo di solventi aggiuntivi e passaggi dispendiosi in fase di preparazione, ma sfrutta la forza meccanica che va a modificare la struttura del materiale di partenza grazie all'utilizzo di tecniche avanzate che sfruttano la luce di sincrotrone abbinata alla potenza di calcolo oggi disponibile. Diamo uno sguardo al meteo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, nuvolosità variabile in montagna, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 28 gradi, il mare poco mosso con una temperatura di 25 gradi, a Gorizia 29, a Pordenone 28, a Udine 27, a Tolmezzo 24, a Tarvisio 20, a Forni di Sopra 21 gradi, a Piancavallo 18, a Sappada 20, sul Monte Zoncolan 14 gradi, sul Monte Lussari 13, a Grado 28, a Lignano 29 gradi, la temperatura del mare è di 26 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: cielo in prevalenza variabile su tutta la regione, probabilmente poco nuvoloso dal pomeriggio sulla costa, venti di brezza. Siamo allo sport, domani a Parigi, sulla Senna, la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici, dalla nostra regione la carica di 16 atleti pronti a regalare emozioni, tra questi Asia Tavano, 22 anni, judoka udinese al debutto olimpico. Alcuni mi dicono: ma come fai a essere sempre così tranquilla? Non mi sveglio la mattina e penso judo. E ho tante cose a cui pensare, anche qua la stalla, è quello che un po' mi mantiene anche un po' di serenità e tranquillità. Judo, letteralmente, significa via della gentilezza, della cedevolezza. L'arte di rivolgere contro l'avversario la sua stessa forza. Incarnati nel sorriso, nella compostezza con i quali Asia Tavano ha conquistato la certezza di essere testa di serie per le Olimpiadi di Parigi nella sua categoria, nella top 10 mondiale. Assieme alla triestina Veronica Toniolo, Asia Tavano sarà la prima judoka di sempre a rappresentare il Friuli Venezia Giulia alle Olimpiadi, nel team azzurro più forte, mai così tanti atleti qualificati per un'edizione. C'è arrivata Asia partendo da questa azienda agricola in Friuli, a Sclaunicco, 500 vacche da latte, ma anche una sala pesi e dei tatami per allenarsi. Facciamo tutti colazione dalla nonna, così ci organizziamo un po' la giornata e poi ognuno ha il suo compito, partiamo per andare nei campi, andiamo nella stalla, da quando avevo 6-7 anni che guido i trattori. È a quell'età che papà Rudy la porta in palestra, prima a Codroipo, poi a Udine. All'inizio ero un po' timida, avevo paura un po' di fare le gare, quindi ho iniziato un po' tardi. Dopo tanti anni e viaggi su e giù per il mondo, papà e figlia si allenano ancora assieme quando sono a casa. Lui è già agitato, sì, mi ripeto ogni giorno l'Olimpiadi. All'inizio le dicevo di essere aggressiva sul tatami, ci racconta Rudy, ma poi ho capito che la sua forza è un'altra. L'obiettivo di tutti è vincere le Olimpiadi, però si va insomma tranquilli, io come sempre vado tranquilla. Intanto per me già arrivare lì è tanto, poi speriamo anche in una bella medaglia, però fino a quando non si inizia a combattere non si sa come andrà. Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora sport, festa giallorosa ieri in Slovenia per il numero uno del ciclismo mondiale Tadej Pogacar, due le cerimonie in onore del campione, una a Lubiana e l'altra nella sua città natale. Tadej Pogacar, fresco vincitore del Tour e primo dopo Marco Pantani a far doppietta con il Giro nella stessa stagione, è stato accolto da un mare giallo e rosa di appassionati. da San Smago, giro e tour. Non ho ancora ben realizzato che sono riuscito a vincere giro e tour nella stessa stagione. Per la mia testa è quasi difficile da accettare. Tornare a casa, vedere volti conosciuti, amici, la famiglia, è un bel momento da condividere con tutti i tifosi. Oltre ai tantissimi scesi in piazza a rendergli omaggio sul palco, è stata anche la Presidente della Repubblica di Slovenia, Nataša Pirc-Musar. Ha fatto uno sforzo impensabile, una personalità incredibile. Semplicemente lo ammiro come sportivo e come uomo. Sono felice che la sua energia e la sua esperienza vengano già tramandate ai ciclisti giovani. È stata la giornata del fenomeno del ciclismo mondiale che ha distribuito maglie rosa e gialle, concedendosi ai tifosi, specialmente ai più piccoli. Grande amante della musica hip hop, ha assistito cantando alla performance di Watts, rapper della capitale slovena. Pogačar non parteciperà alle Olimpiadi, adesso per lui tanto riposo. Lo rivedremo di sicuro a settembre, prossimo obiettivo in una stagione già strepitosa, i mondiali di Zurigo. Ljubljana, Andrej Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia. La Fondazione Italiana Fegato Onlus partecipa al nuovo gruppo di lavoro Scienze della Vita di FERPI, la Federazione Italiana Relazioni Pubbliche, che ha l'obiettivo di contribuire a un miglioramento della comunicazione nell'ambito delle scienze della vita. Essere rappresentati in questo gruppo di lavoro nazionale dalla missione così importante, ha affermato il presidente della Fondazione Italiana Fegato, Decio Ripandelli, che ha sede a Trieste nell'area Science Park, ci consentirà l'interazione con giganti dell'industria biofarmaceutica e già questo può rappresentare un enorme valore aggiunto alle attività di ricerca, di formazione e di divulgazione della società, che collabora con una decina di partner industriali ai quali si aggiungono università e altre istituzioni di ricerca. Inoltre, potremmo condividere le nostre campagne di comunicazione, in particolare quelle dedicate alla promozione di stili di vita e alimentazione salutari, ha detto il presidente. Si intitola Meraviglie della robotica, l'appuntamento di oggi del ciclo Archeo Spritz, in cui si discuterà dell'evoluzione delle macchine dall'antichità ai nostri giorni. Appuntamento a Gorizia, Palazzo Coronini Kronberg, alle 18:30. Tra i relatori, il divulgatore scientifico Adamo Genco, a cui abbiamo chiesto come è stata organizzata la conferenza. È divisa in due parti. La prima parte è stata curata dalla mia collega, la dottoressa Alessia Zangrando, che ha eseguito una ricerca storica e quindi ci racconterà molte cose interessanti sulle origini e quindi dalle prime invenzioni arabe, passando ad esempio per gli automi di Leonardo da Vinci e molto altro. Nella seconda parte, curata da me, invece parleremo di attualità e quindi della robotica per come la intendiamo oggi, come ci siamo arrivati, arrivando anche ad argomenti particolarmente interessanti in questi ultimi anni, quindi l'intelligenza artificiale, e toccando alcuni temi etici che vi lasciamo scoprire se verrete ad ascoltarci. Nel corso del tempo l'obiettivo qual è stato? Quello di fare delle cose che erano troppo pesanti oppure di farle più velocemente? In effetti, anche nell'etimologia, nel significato proprio della parola robot, si può trovare indizi sulla necessità di sostituire il lavoro pesante fatto dall'uomo con le macchine. Quali sono degli esempi più curiosi che possiamo citare? A mio modo di vedere riguarda anche l'origine stessa, come le dicevo, perché tutto nasce da un'opera teatrale del 1920, un'opera teatrale ceca che ha poi lanciato il termine di robot. Fino a prima robot era inteso come forza lavoro, è una parola di origine slava, ma non veniva utilizzata a livello universale. Quindi solo da quel momento si inizia a parlare di robot e poi arriviamo all'era industriale la più recente, in cui in ambito automobilistico i robot sono attualmente di grande utilizzo e rappresentano il primo esempio di applicazione nella realtà. Chiudiamo con alcuni appuntamenti in programma stasera. Il Festival Specchi di Confine, che include musica, arte, libri, scrittori, incontri ed esperienze, sarà aperto dal trio della violoncellista e cantante cubana Anna Carla Masa sul palco con l'album Caribe, con cui si riconnette alla musica della sua infanzia a L'Avana e alle radici latinoamericane. A Gorizia, a Villa de Nordis, alle 21. Primo appuntamento per il ciclo Le Notti del Vino, contenitore di eventi estivi del coordinamento delle città del vino del Friuli Venezia Giulia, in cui saranno proposte degustazioni e assaggi a Monrupino, alla Rocca del Comune, alle 19:30. L'intrattenimento musicale sarà curato dal fisarmonicista Alexander Ipaves. Era l'ultima notizia del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Edoardo Veglia, per la parte tecnica in regia Mauro Coloni e Walter Vidonis. Da parte di Maria Spezia e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.